La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al tricolore. Il 7 gennaio scorso si è celebrata a Reggio Emilia, alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la festa della bandiera italiana. L'intervento introduttivo alla cerimonia è stato tenuto dallo storico Alberto Melloni, oggi ospite ai nostri microfoni. La bandiera italiana ha appena compiuto 214 anni. Lo ha ricordato lo scorso 7 gennaio a Reggio Emilia il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel corso della cerimonia inaugurale del 150° anniversario dell'Unità Nazionale. Evento che verrà rievocato in tutto il 2011 con una lunga serie di manifestazioni e celebrazioni. Proprio il 7 gennaio, festa della bandiera, è la data simbolo che Napolitano ha scelto per ricordare a tutti che il rispetto del tricolore è un obbligo espressamente previsto dall'articolo 12 della nostra Costituzione. Se c'è stata una memoria del nostro lungo processo storico nazionale, che nei decenni dell'Italia repubblicana non si è mai omesso di coltivare e celebrare, è stata precisamente quella della nascita del tricolore. E non fu per caso che venne collocato all'articolo 12 il riferimento al tricolore italiano come bandiera della Repubblica. Riferimento sobrio, essenziale, ma imprescindibile. I costituenti vollero farne, con quella collocazione nella carta, una scelta non solo simbolica, ma di principio. E dato che nessun gruppo politico ha mai chiesto che vengano sottoposti a revisione quei principi fondamentali della nostra Costituzione, ciò dovrebbe significare che per tutti è pacifico l'obbligo di rispettarli. Comportamenti dissonanti, con particolare riferimento all'articolo sulla bandiera tricolore, non corrispondono alla fisionomia e ai doveri di forze che abbiano ruoli di rappresentanza e di governo. La lunga storia del tricolore prende avvio il 7 gennaio del 1797, quando i delegati della Repubblica Cispadana, accogliendo una mozione di Giuseppe Compagnoni, decretano che si renda universale lo stendardo o bandiera cispadana di tre colori: verde, bianco e rosso. Nasce così il tricolore come vessillo nazionale. La prima bandiera tricolore cispadana ha i colori disposti in tre strisce orizzontali: il rosso in alto, il bianco in mezzo, il verde in basso. Al centro è dipinto il turcasso o faretra con quattro frecce, a simboleggiare l'unione delle quattro popolazioni di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Le lettere R e C, poste ai lati, sono le iniziali di Repubblica Cispadana. Nei tre decenni che seguirono il congresso di Vienna, il vessillo tricolore fu soffocato dalla Restaurazione, ma continuò ad essere innalzato quale emblema di libertà nei moti del 1831, nelle rivolte mazziniane, nell'impresa dei fratelli Bandiera, nelle sollevazioni negli stati della Chiesa. Quando prese avvio la stagione del 48 e della concessione delle costituzioni, quella bandiera divenne il simbolo di una riscossa ormai nazionale da Milano a Venezia, da Roma a Palermo. Il 14 marzo 1861 venne proclamato il Regno d'Italia e la sua bandiera continuò ad essere, per consuetudine, quella della prima guerra d'indipendenza. La mancanza di una legge al riguardo, emanata soltanto per gli stendardi militari, portò tuttavia alla realizzazione negli anni successivi di vessilli di foggia diversa dall'originaria, spesso addirittura arbitrarie. Soltanto nel 1925 vennero definiti per legge i modelli della bandiera nazionale e della bandiera di Stato. Dopo la nascita della Repubblica, il decreto legislativo presidenziale del 19 giugno del 1946 stabilì la foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata poi dall'Assemblea Costituente nella seduta del 24 marzo 1947 e inserita, appunto, come ricordava il presidente Napolitano, all'articolo 12 della nostra Carta Costituzionale. Abbiamo in linea lo storico Alberto Melloni, che ha svolto l'intervento introduttivo alla cerimonia dello scorso 7 gennaio a Reggio Emilia. Professore, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei. Professor Meloni, il presidente Napolitano ha sottolineato come nel suo intervento lei abbia fatto rivivere la storia dei tanti tricolore nell'Italia giacobina, fino all'affermarsi di quella che effettivamente divenne poi la bandiera dell'Italia unita, dello Stato nazionale, ha detto Napolitano, finalmente nato. È così? Sì, la storia della bandiera italiana è una storia che in realtà è stata più ricostruita che altro, nel senso che il tricolore, quello che conosciamo tutti, bianco, rosso e verde, che è una insegna patriottica e poi rivoluzionaria, si associa in quegli anni, alla fine del Settecento e prima dell'arrivo di Napoleone, con altre bandiere che riprendono questa metrica a tre, che era evocativa in quel momento delle triadi rivoluzionarie di libertà, fraternità e uguaglianza, dei colori della bandiera francese. Il modo in cui il bianco, rosso e verde si impongono in realtà è stato nella storia italiana dovuto a dei fatti di carattere politico più che una semplice questione di genealogie, e anzi alla fine dell'Ottocento è proprio questo bisogno di cercare di far nascere il tricolore prima dell'Italia una che è il vero obiettivo politico che si vuole costituire. Il tricolore che conosciamo noi si afferma perché in realtà Mazzini mette da parte le bandiere più segrete che aveva, la bandiera rossa, la bandiera nera, e perché Carlo Alberto, quando è ora di attaccare gli austriaci a marzo del 48, decide di cucire lo stemma dei Savoia su questo simbolo che libera da quella che era la sua ipoteca cisalpina così lontana nel tempo ormai. Lo stesso presidente Napolitano ha poi ricordato che per molto tempo vi furono delle resistenze nel riconoscere il valore comune di quel vessillo. Resistenze che si devono a cosa, professor Meloni? Ma resistenza al fatto che l'Italia di allora, l'Italia che si unisce, non è un'Italia come può pensare oggi una persona normale, e non è affatto un'Italia democratica, è un'Italia di una piccola quota di borghesia liberale che galleggia su un immenso paese escluso dal voto per ragioni di censo, ed è una bandiera quella lì che non è cara per esempio all'inizio ai socialisti, c'è tutta una serie di attenzioni poliziesche anche perché perfino ai tempi di Carducci si tende ad arrotolare il tricolore di modo che resti fuori soltanto la bandiera rossa, e non è cara ai cattolici che nel conflitto con la Chiesa su cui lo Stato italiano nasce mantengono come una specie di fedeltà ad un patriottismo diverso, la fedeltà ai colori guelfi piuttosto che ai colori repubblicani. Non è un caso che poi questo rimanga addirittura in quella che sono le simbologie dei partiti dell'Italia repubblicana dopo. Infatti, ecco, ora professore vorrei portarla proprio a tempi più vicini a noi, a 60 anni fa, alla proclamazione appunto della Repubblica e alla decisione dei costituenti di inserire il tricolore nell'articolo 12 della nostra Carta Costituzionale. Intanto, perché si giunse a questa decisione, professore? Ma si giunse a questa decisione perché durante la guerra partigiana una delle cose che i combattenti fanno è quello di riprendersi il tricolore dal fascismo. Il fascismo si era impossessato della bandiera nazionale, come si era impossessato di tante altre cose, si era impossessato del patriottismo, si era impossessato del mito di Roma, si era impossessato delle figure del Risorgimento, e invece quello che i partigiani fanno è riprendersi perlomeno il tricolore. Quando questo tricolore entra in Costituzione, a me sembra importante sottolinearlo, e ci entra sulla base di un nuovo tipo di patriottismo, quello che poi la cultura costituzionale tedesca chiamerà il patriottismo della Costituzione, cioè il fatto che i paesi, vale per la Germania ma valeva anche per l'Italia, che avevano creato e conosciuto le dittature, non potevano più avere un patriottismo del sentimento nazionale indiscriminato, qualsiasi, come quello che possono avere i paesi che non hanno fatto questa esperienza, ma dovevano un patriottismo che era filtrato dalla Costituzione, e il modo in cui il tricolore viene inserito in Costituzione, ultimo dei principi fondamentali, quelli di cui nessuno domanda la variazione e che non sono nemmeno modificabili da un certo punto di vista, marca esattamente questo, cioè il fatto di un'Italia che si riconosce in quella bandiera, ma che quella bandiera inserisce nella Costituzione. È come una specie di gioco di scatole, no? Il tricolore della Costituzione, la Costituzione del tricolore. E questo è il modo in cui oggi gli italiani possono riconoscere ed accettare, anche onorare quel simbolo dentro una storia, che è una storia di libertà democratica e non semplicemente di archeologia storiografica. E appunto a questo riguardo, professor Meloni, un'ultima cosa volevo chiederle. Lei ha parlato appunto di patriottismo della Costituzione riferendosi alla scelta fatta dai padri costituenti, ma oggi ha ancora questo valore ed è percepito come tale, secondo lei, dall'opinione pubblica? Secondo me l'ha percepito sempre di più, perché c'è stata una lunga stagione in cui paradossalmente il tricolore apparteneva alle nostalgie della destra italiana, sì. Che dimenticavano quell'opera di riconquista, per l'appunto fatta dai partigiani, Giustizia e Libertà, il gruppo in cui milita anche il giovane Ciampi, fa un tricolore dove al posto del simbolo sabaudo c'è per l'appunto la scritta, così il corpo dei Volontari della Libertà e tante altre formazioni partigiane. Oggi noi, mi sembra, ritorniamo a guardare al tricolore in maniera più serena, più equanime, non appunto come un identificatore di una cultura reazionaria o tantomeno nostalgico, ma appunto come il segno di quella fedeltà alla Costituzione che rimane l'unica cosa su cui questo Paese può fondarci, per non sprofondare. Grazie professor Meloni e molti auguri per la sua attività. Grazie a lei.